Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. Eccoci qui, tornati ai nostri posti di combattimento, perché è un po' un posto di combattimento questo. I Fantastici 3, perché è il quarto. Eh sì, il quarto è ormai disperso. Non NC, la leggenda non classificabile. Narra che sia al mare, che la leggenda vuole con la mamma. Il quarto. Terzo è sei tu. Sarebbe io? Sarebbe tu. Sì. Allora, ben dicevo, tornati ai posti di combattimento con lo spazio pilloline, che sono un po' il riassunto in pillole appunto della si serata. Si trasforma in un razzo missile. Che cosa ha a che fare con le pillole? Spazio. Ah, spazio, sei andato su spazio, Ha colto la parola chiave, dai. Sì, il problema è che se le facciamo su tutte diventa un'ora e un quarto di intervento, perché continua a spezzare. Intervento chirurgico. Intervento chirurgico. Spezza. Tino. Spezza. Tino. Bello, mi piace, bello, spezzatino. Spezzatino con patate, però. C'è anche la versione con i piselli, che però va forte. Ma te che mi sai di del gas nervino? Gas nervino, cioè la spezzatina si è arrivata a gas nervino. Cos'è il gas nervino? È quello che dovremmo utilizzare in certe serate quando sono le tre e continuano tutti a ballare. Ma te lo dico io, a me il gas nervino piace, anche il vino fermo mi piace, però gas e bollicine mi piace. Non ci sono arrivato. Non ci sono arrivato. No, io neanche io sono arrivato. Era felice, è vero, non riciclata, insomma è famosa battuta. E dicevo, per riassumere un po' la serata, ma poi come vedete non ci riusciamo fisicamente mai, perché poi perché qualcuno deflagriamo, esatto. No, ma ci sta deragliare dalla via maestra. Esatto, è giusto deragliare dalla via maestra. Quindi un altro sabato di Inner & Dance che si sta andando a concludere. Sabato caldo, afoso, che di più. Sì. Siamo sui 30 gradi. Si è sofferto sì. Un po'. Che però l'afa è finalmente scoppiata. Scusami se l'afa? No. Chi è scoppiata? L'estate. Ah, l'estate. Però dicevo, ha permesso ai nostri ospiti anche di godere. Io ho girato, ho avuto, o meglio, la possibilità di girare un attimo anche nei giardini. Dicevo, ha fatto godere dei nostri ospiti anche della, come dire, della parte estiva, ecco, del convento. Quindi Giardini imperiali, l'amaca, le poltrone. È anche un po' un bel modo anche di i bar esterni molto. Sì, però anche un bel modo di vivere la festa, sì, in maniera è bellissimo. No, dicevo, anche un modo di vivere la festa in maniera un attimino diversa, non sempre, come dire, al centro della festa stessa, quindi musica, alto volume, casse, bom, casino, ma prendersi anche un piccolo spazio per, insomma, chiacchierare, rilassarsi un attimo e dare un piccolo, non tanto lo stop, ma una pausa, parlando di magari in termini filmografici meno. E cinematografici, rispetto alla festa stessa. E ci sta un po' anche cambiare clima e cambiare energia. E pensa che proprio nei giardini si svolgerà una festa molto particolare, che è il 21 di giugno. Il 21 giugno, cosa per festeggiare l'estate? Anche, ma non solo. Cos'è? Solstizio, giusto? L'estate, sì, esatto, ma no, non solo. Una differenza. Cos'altro, eh? Dave, tu che sei. Mister Dave, ho tanta fiducia in te. No, aspetta. Esatto, bravo. Tu che sei l'intelligente del gruppo. Differenza tra equinozio e solstizio, che già dirlo entrambi c'è da morire. E sono i punti in cui la Terra. No, l'equinozio è equinozio, quindi è il giorno. Sì, ha a che fare con i cavalli. Notte, no, la notte e il giorno hanno la stessa durata. Certo, ma perché? Perché la Terra è in un punto particolare dello spazio attorno al Sole. Questi punti sono gli afeli e i perieli. Afelio e perieli. Io direi 9. No, è vero. No. Però quindi cos'è equinozio e cos'è solstizio? L'equinozio, cosa hai detto, cos'è? E il solstizio è il punto. E il solstizio adesso è il punto in cui è il giorno in cui il sole è il più vicino alla Terra. Quindi estate. Solo equinozio sono sicura. Quindi equinozio inverno. No, dico, Google. Equinozio, inverno, solstizio, estate, okay, giusto? Ragazzi, un attimino che Nadia sta. Però vedi che comunque sono anche pillole culturali, non so. È il 21 giugno. E quello ci siamo. È il momento in cui il sole raggiunge nel suo moto apparente lungo l'eclittica il punto di declinazione massima o minima. Questo significa che il solstizio di estate e il solstizio d'inverno rappresentano rispettivamente il più lungo è il più corto. Quindi mi, questo, il giorno più lungo, il giorno più esatto. Esatto, quindi questo mi esclude le stagioni di mezzo, per cui primavera e autunno c'è l'equinozio. Vediamo subito. Primavera sicuro. Allora, senza... Primavera sicuro, perché allora, c'è equinozio senza... di primavera, questo mi suona. Sarà il giorno più lungo, quindi. Esatto. Equinozio, per esempio, quest'anno cade il lunedì 23 settembre ed è quel comincerà momento l'autunno della rivoluzione terrestre intorno al Sole, in cui quest'ultimo si trova allo zenit dell'equatore. Esso riconduce due volte esso ricorda due volte durante l'anno solare. In tal momento i periodi diurni e quelli notturni sono uguali, come ho detto io giustamente, giungendo i raggi solari perpendicolarmente all'asse di rotazione della Terra, proprio come prima spiegato da Nadia. Benissimo. C'è scritto così. Ah, sì, benissimo. Adesso, sì, adesso spengo. Riassumi il senza cellulare. Beh, adesso facciamo un io riassunto. Che sono la bionda, intanto che avevo dato... Allora, praticamente ci sono queste palle così di fuoco in uno spazio tipo buio, no? E tipo uno di questi è la Terra e poi gira, non si sa come, e ogni tanto gira in un modo e perché è... gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Eh sì, tanta roba, tanta roba. Sì, sì, era così. Però posso tornare al mio argomento principale? No, aspetta, perché io il riassunto che ho, perché mi piace la, il riassunto in didascalie e in pillole appunto. Quindi solstizio estate inverno, equinozio primavera autunno. Basta. Io me la porto a casa così e domani a pranzo. Ma nella definizione, a me non mi interessa la definizione. Delle palle luminose che girano. No, no, a me non interessano le definizioni, a me interessano le risposte. Ok, quindi allora domani tutto a pranzo questo per me dire la gioco. Che il 21 di giugno, che quindi oltre è essere il solstizio d'estate, giusto? È un giorno importante per noi perché rappresenta il 29esimo compleanno del convento. Il ma convento va là. È stato inaugurato il 21 giugno 1990. 90, ok, esatto, quindi 29esimo. Quindi come diceva una sposa che no, scusa, una sposa, una ragazza che ne faceva 29, lì lì per diventare grandi. Fino adesso giovani, adolescenti, dall'anno prossimo si diventa adulti. Ma di solito lo si dice ai 18, per considerando che tu, beh, poi, tu li hai superati. Dipende, no, si va ai 30, si va ai 30. Ma e 30 sì, diciamo che non si torna più indietro. È quella cioè, quel valico che non... Tu che hai già iniziato il declino, ma così infatti, confermi? In effetti, guarda, scusate, ma stavo facendo i conti. Nel 90 quanti anni avevo? E sono caduto in depressione in pratica. Beh, scusate, ho perso il filo, però effettivamente è quello che dice Nick. Dopo i 30 c'è il declino. No, perché scusa. Ma è anche una presa poi, di coscienza del fatto che sei diventato veramente grande. Dopo i 50 cominci la cataratta. Sì, diciamo che cominciano più le giornate dal medico che le giornate libere. Beh, no, cioè, insomma, io stavo per promuovere una festa di compleanno, ma me la state smontando. Ah, una festa, no, di compleanno? E noi credevo diventasse un geriatrico, tipo, no? C'erano tutte le visite mediche in quel giorno lì. No, no, allora è la festa di compleanno del convento e per l'occasione innanzitutto abbiamo pensato, visto che amici, anche... amici, mamma, il 21 giugno al convento di Lonato ci sarà la festa di compleanno. Esatto, che è quello che ho appena detto. Sì, ma con abbiamo... meno energia però, con meno sì, energia. Perché doveva essere un po' più informativo. Ah, ok, una promozione ufficiale. Ma mi sa che non ce la facciamo, oggi. No, no, ce la facciamo. Allora, oltre che essere festa di compleanno del convento, è anche la festa inizio estate, quindi abbiamo pensato di coinvolgere tutti quanti e proponendo il dress code total white. Ma no, io speravo quella tutta da sci. Cavoli, quello lo teniamo per il 15 di agosto. Quella l'idea è forte. È quella, esatto. Total white, quindi e molto per elegante. E l'occasione ci sarà la torta e lo spumante offerto a mezzanotte. Wow! Che giorno è il 21? È venerdì. Ah, venerdì. Beh, perfetto. Ed ecco perché si ricollega, perché no, scusa, è venerdì. È venerdì questo praticamente, sì, venerdì prossimo. Dai, no, che storia. È già qua. È già domani, come diceva Vasco. Sì, infatti. È già dietro l'angolo. Ragazzi, sì, è già il prossimo venerdì. Poi dopo è 50, dopo i 50 vi accorgerete come il tempo è fast running. Cioè veramente, veramente Vola con quanto fiato in gola. No, dobbiamo andare ragazzi. Bene, il tempo vola. Mi sto è già quasi ora addosso, di chiusura . Meglio se andiamo a salutare i nostri ospiti che stanno ancora tutti ballando. Sarà dura convincerli che la festa è finita. Ma purtroppo ci tocca, è un duro lavoro. Ma qualcuno lo deve fare. Se ma com'è che si dice? L'ultima. Gli amici noi si vedono al momento in cui la festa è finita, giusto? È vero. Anche perché, come direbbe un noto filosofo di cui non ricordo il nome, il ricordo talmente noto. Sì, ma molto noto, esatto. E il ricordo della festa è ancora più forte della festa stessa. E siccome non posso fare come tutte le altre volte, anzi, no, poi non lo faccio. O poi la faccio. Cosa? No, non lo cosa, faccio. Cosa? No, non lo faccio, non lo faccio. Questa volta non lo faccio. Cosa vuoi perché fare? Perché porterebbe fortuna. Toccare le tette a Nadia. Ah, ok, esatto, esatto. Solitamente questa volta sarà. No. L'ha fatto. Quindi noi vi diamo appuntamento a un altro weekend convento ricco di eventi, ma soprattutto questo fantastico compleanno che sta prendendo forma e tutto in bianco, quindi non tutto ci resta bianco, altro che... Bianco, che cavolo, esatto. Devo rivedere il mio armadio allora. Facciamo una notte e soprattutto... rivedere l'armadio e ricordarmi di mettermi esatto allora facciamo e ricordarmi di mettermi anche le mutande, visto che anche la Naked Dinner aveva avuto il suo appeal, insomma facciamo o in bianco o nudi, scegliete voi. Bello, bello. No. È che però mi imponi anche devo l'intimo, devo fare la ceretta, quindi col total white mi imponi anche l'intimo perché deve essere bianco, sì, per forza. Oppure senza l'intimo, oppure senza l'intimo. Bello, bello, vedremo che soluzione. Secondo me l'intimo non penserò ad altro. Bianco total, non a poix, che non è esatto, c'è il cosettino, il poix bianco, certo, non conta. Certo. Non farò altro che pensare a che intimo mettere durante la settimana. Esatto. Va bene, esatto. Allora grazie ragazzi per averci seguiti, intanto che questa ragazza fa le trottole su se stessa. E appuntamento, come dicevo, la prossima settimana ricca di eventi e poi festeggeremo alla grande il nostro compleanno convento. Un saluto da Master Nick. Un saluto festoso da Mr. Dave. Da Nadia. E un grazie come sempre a tutto lo staff e a tutti i ragazzi che rendono come sempre speciale ogni serata al convento, che è veramente speciale grazie soprattutto al contributo di ognuno di voi che anche per questa sera ha scelto di fare festa insieme a noi. Grazie e buonanotte.